Ti ricordi una volta si sentiva soltanto il rumore del fiume la sera? Ti ricordi lo spazio, chilometri interi, automobili poche? Allora le canzoni alla radio, le partite allo stadio, sulle spalle di mio padre. La fontana cantava e quell'acqua era chiara. E dimmi che era così, così. C'era pure la giostra sotto casa nostra e la musica che suonava. Io bambina sognavo un vestito da sera con 3000 sottani, tu la donna che già lo portava. C'era sempre un gran sole e la notte era bella come eri tu. C'era pure la luna, molto meglio di adesso, molto più di così. Sì. Com'è? Più vista così, che tempi quelli.